Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Parliamo oggi del libro che ha vinto il Campiello 2012, La collina del vento, scritto da Carmenia Abate e pubblicato da Mondadori. Si tratta di una saga familiare ambientata in Calabria, in un paese di fantasia, collocato dall'autore vicino Cirò Marina, in provincia di Crotone. Con un linguaggio semplice ma poetico, fatto anche di dialettismi che comunque insomma si comprendono dal contesto, Abate ci racconta la storia della famiglia Arcuri, proprietaria della Collina del Vento che dà appunto il titolo al romanzo. Generazione dopo generazione, dai primi del Novecento ad oggi, uomini e donne si tramandano un legame di sangue e un forte attaccamento alla terra. La terra del Rossarco, questo è il nome della collina, è vita, è la storia stessa della famiglia Arcuri. Qui in campagna, in mezzo ai fiori di Sulla, nascono i bambini, qui si lavora la terra che dà sostentamento, qui si fanno i giochi dell'infanzia. Ma qui ci sono anche dei segreti, dall'omicidio che apre il romanzo ai tesori del sottosuolo, i resti dell'antica città di Crimisa. Sentiamo da Carmenia Abate come è nata l'idea del romanzo. È nata da un'immagine e da una promessa. L'immagine è quella di una collina dell'Alto Crotonese che si trova tra Cirò Marina e il mio paese d'origine, quindi una collina che si affaccia sullo Ionio, che io ho visto, si può dire, da sempre. E però da quando ero ragazzo ne sono stato assolutamente affascinato perché avvolta da un alone magico quasi, e poi è bellissima come colori, il rosso della Sulla, che sono questi fiori di una pianta foraggera. E inoltre, trovandoci nel cuore della Magna Grecia, ho sempre immaginato che dentro questa collina potessero nascondersi dei tesori. Il romanzo fino a 2 anni fa non era mai decollato, non avevo mai avuto nemmeno l'intenzione di scrivere, e lì è subentrata la promessa che ho fatto a mio padre nell'ultimo anno della sua vita, non una promessa verbale ma l'ho fatta dentro di me, e cioè che avrei raccontato le storie che lui continuava a raccontarmi anche nell'ultimo periodo della sua vita, prima che queste storie, anche le più scomode, anche le più segrete, morissero con lui. A proposito di rapporto con il padre, in questo romanzo si racconta una saga familiare, la famiglia Arcuri, proprietaria appunto di questa collina, c'è molto il senso anche dell'attaccamento alla terra, ed è raccontata dal punto di vista, diciamo, della discendenza maschile, possiamo dire così, quindi ogni volta i rapporti padre-figlio. Quanto è stato importante per te entrare nell'analizzare proprio dal punto di vista romanzesco il rapporto padre-figlio? Questo è uno dei temi centrali di tutta la mia narrativa, che forse parte dal fatto che ho avuto un padre assente, nel senso che mio padre, quando io avevo 4 anni, è partito per la Germania e tornava una volta all'anno, però dimenticavo poi l'assenza del padre quando tornava mio padre, che comunque ripartiva dopo un mese, dopo 2 mesi. E quindi da allora, forse dal mio primo racconto, ho sempre cercato di analizzare questo rapporto padre-figlio, che comunque romanzo dopo romanzo è diventato piuttosto un rapporto tra le generazioni. E quindi è vero che in questo libro si parla spesso di tramandare con la tradizione, le storie, attraverso un padre e un figlio, ma anche le donne hanno un ruolo centrale, per cui parlerei più di un rapporto tra le generazioni, una generazione che passa il testimone a quella successiva, che mi sembra veramente una cosa sana, una cosa che bisognerebbe fare, perché quando si interrompe questa trasmissione, allora siamo più poveri, perché allora ci manca la memoria, che è fondamentale, la memoria che ci trasmettono le generazioni precedenti, che appunto centrale in questo libro. I personaggi femminili mi sono piaciuti molto, nel senso che sembrano apparentemente meno protagonisti di quelli maschili, però ecco, sono le tipiche donne del sud, sono donne forti, però capaci anche di stare in disparte, ma non come senso di inferiorità, tant'è vero che diciamo, il personaggio femminile più giovane studia come il fratello, poi finirà per andare a Londra. Ma per fare un po' uno schema, in poche parole, possiamo descrivere quali sono queste 4 generazioni che si susseguono in base ai personaggi, nel capostipite, Arturo, Michelangelo e Rino? Sì, prima c'è Alberto Arcuri e la moglie Sofia, che hanno 3 figli, però due, questo lo possiamo dire perché succede agli inizi del libro, due di questi figli muoiono in guerra e resta proprio il più caparbio, il più paccio, la rindina Yanka, come viene definito nel libro, che è Arturo, il quale si sposa con Lina. Ed è un matrimonio atipico, perché non è un matrimonio di combinazione come succedeva negli anni 20, ma un matrimonio d'amore. Cioè lui si innamora dopo aver analizzato, controllato, guardato tutte le ragazze del paese, si innamora proprio di quella che non gli dà retta, proprio un'altra capatosta fin dall'inizio, che è Lina. Tra i due nasce l'amore, si sposano e nasce Michelangelo che dovrebbe chiamarsi Alberto come il nonno paterno, appunto, secondo la tradizione, ma che proprio il nonno decide di chiamarlo con i nomi dei due figli morti in guerra, perché vivano un pochettino anche loro, almeno nel nome. I due figli si chiamavano Michele e Angelo, il figlio, il primogenito, si chiamerà Michelangelo. E poi c'è la sorella di Michelangelo, che nasce il giorno di Sant'Antonio ed è Antonia, quindi Antonia, che però Michelangelo da bambino chiama Nina, e a un certo punto, il giorno dopo la nascita, decide che anche bella questa bambina, la chiama Nina Bella, resterà Nina Bella per tutta la vita, una bambina ribelle, o il personaggio più ribelle forse del libro, che vuole diventare pittora e che... questo lo possiamo anche dire, si innamora poi di un personaggio capitatogli proprio dal cielo, che è sceso dal cielo, un pilota inglese, mentre Michelangelo sposerà un'altra persona che viene da fuori, un altro grande personaggio femminile, che è la Torinesia, Marisa, la Torinesia, che è un'archeologa e che negli anni 50 porta i pantaloni, guida la Vespa, e quindi tutte le donne la guardano un po', la guardano non con invidia, con pettegolezzi, ma con ammirazione, perché una che intanto viene da fuori ma apprezza la Calabria, come i due personaggi realmente esistiti di cui parlo, Paolo Orsi e Umberto Zanotti Bianco, guarda la Calabria e il sud senza gli occhi del pregiudizio e quindi nota gli aspetti negativi ma anche quelli positivi. A proposito dei personaggi reali, in questo romanzo si parla del fatto che sotto questa collina ci possano essere i resti dell'antica Crimisa o Cremissa, che dir si voglia, quindi nella zona di Ciron Marina in provincia di Crotone. Questa cosa che tu racconti appunto dell'archeologo Paolo Orsi, sono tutte vere? Sono tutte assolutamente vere. È stato il lavoro non più difficile ma più faticoso del libro, documentarmi, perché Paolo Orsi è stato davvero... nel 1915, quindi alla vigilia dell'ingresso, nella primavera del 15, in quelle zone di Ciron Marina, proprio alla ricerca dell'antica cittadina di Crimisa, volevo localizzare questa cittadina e magno-greca e il tempio di Apollo Aleo, che lui cercava su una collina, mentre poi nella realtà è stato trovato proprio nella zona di Punta Alice, quindi una zona assolutamente pianeggiante, e lui si è sempre sorpreso di questa scoperta. E poi ci sono delle storie verosimili, perché poi faccio venire Paolo Orsi, oltre che nel 24, recuperando i suoi scritti proprio sugli scavi, quindi prendendo spunto moltissimo da quello. Tanto per fare un esempio, Paolo Orsi dice che tra gli operai scavatori c'erano anche degli albanesi, e quindi io mi sono immaginato che fossero, anzi sicuramente saranno stati di Carfizzi, del mio paese Arbrescia, perché gli albanesi erano gli Arbrescia, e magari ci sarà stato anche qualche mio parente, forse pure mio nonno, che era reduce dalla Grande Guerra e come tutti gli altri operai scavatori, venivano presi proprio i reduci della grande Guerra. Per cui quella è una storia tutta vera al 100% e in parte verosimile. Io ho già detto diverse volte già su Radio 24 che a questo libro sono legata visceralmente. Mi è piaciuto molto come lettrice e poi appunto si parla di Ciro Marina, che è il paese di mia mamma, dei miei nonni. Io ho avuto la fortuna di leggerlo a Puntalice, dove appunto è ambientato questo romanzo. Ecco, io ho ritrovato i colori e i suoni di quelle terre e ho ritrovato anche la lingua quando appunto loro parlano un po' in dialetto. Ma pensi che per il resto del pubblico questo possa essere un ostacolo o una forma di fascinazione? E al momento, sentendo le reazioni, è un momento di fascinazione, anche perché in questo libro, meno rispetto agli altri libri, ho usato più che il dialetto, dialettismi che si comprendono dal contesto e che sono fondamentali non solo per dare la voce ai personaggi, addirittura direi l'anima, perché la lingua è l'anima dei personaggi, di un personaggio, di un romanzo, ma soprattutto perché queste parole non sono costruite a tavolino, cioè io non sono stato lì ho cercato semplicemente, le ho lasciate istintivamente sulla pagina, si sono impigliati sulla pagina. Io le ho lasciate queste parole perché mi sono accorto che erano proprio queste parole che mi portavano a galla, in questo come negli altri miei libri, le storie. C'è un autore o un libro classico, recente, che tu consiglieresti ai nostri ascoltatori? Ma mi piacerebbe in questa occasione consigliare un libro di uno scrittore che ho amato molto, di cui poi sono diventato amico, che è Vincenzo Consolo. Per esempio l'ultimo, che è una raccolta di racconti uscito da Mondadori, oppure un suo classico che è Retablo, che è un libro che ho amato molto, soprattutto per la scrittura, una scrittura assolutamente superiore alla stragrande maggioranza dei romanzi italiani. E questo era Carmine Abate, autore di La collina del vento, pubblicato da Mondadori, che ha vinto il Campiello 2012. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it e se volete sapere qualcosa di più su questo libro di Carmine Abate potete andare anche sul sito ilsole24ore.com nella sezione Cultura, cliccando poi ancora nella sezione Libri. Un saluto da Alessandra Tedesco.